la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, questo martedì 4 di marzo 2014, 16:35, primi 18 secondi, in diretta dagli studi Radio 24 di Milano. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia, grazie a quelli che continuano a scaricarci e a sentirci fuori da quest'ora, ovviamente con i computer, i telefonini, per chi non può sentirci in diretta. Prima di andare all'argomento del giorno, una dedica. La faccio ogni tanto per ricordarci che per via della crisi continuiamo a essere un paese di gente che disperata purtroppo si uccide. E la puntata di oggi voglio ricordare all'inizio Mario Nati e Giovanna Bicchierari. Mario Nati 72 anni, sua moglie Giovanna 70 anni, lui è un ex consulente farmaceutico, lei è un ex farmacista che di fronte a un debito di 20.000 euro rimasti in arretrato per la rata della casa e non sapendo come fare si sono uccisi entrambi. Lui ha prima ucciso la moglie e poi si è suicidato. Un abbraccio ai familiari e continuiamo per favore a ricordare quante vicende terribili di questo genere ogni giorno hanno un esito di disperazione e di solitudine che non è determinato meccanicamente dalla crisi, ma che la crisi accelera, che la crisi con la tenebra di cui copre gli occhi, lo spirito, la testa, il cuore di chi decide queste cose estreme, purtroppo produce come la faccia della morte le sue vittime quotidiane. Ecco, per me questa dovrebbe essere la stella polare per le priorità pubbliche, perché in questi anni è diventata un'abitudine, tanto che oramai sono notizie relegate nelle paginette di cronaca, perché si pensa che sia ciò che lo squilibrio mentale porta a fare per altre ragioni sempre nella vita, e no. Anche in questo caso c'erano debiti con una banca e c'era la vergogna, dopo una vita intera di dignità, vivono in un complesso di persone ad alto reddito, di dover ammettere non ce la facciamo a 73 anni, a 70 anni ci uccidiamo. Il figlio non ne sapeva nulla, tanto per darvi l'idea di come la solitudine miete. Allora, l'argomento della giornata è, dopo questa dedica un po' impegnativa, ma ogni giorno dovrei fare così, visto che c'è solo l'imbarazzo della scelta, purtroppo, e invece la riforma elettorale. Quindi chiamateci all'800 24 00 24 per dirci cosa avete capito, cosa ne pensate, quali sono i punti che vanno o non vanno. So già che è una non priorità rispetto all'economia, lo sappiamo, quindi non mi dovete dire non ce ne importa nulla, però in realtà è fondamentale, perché senza una legge elettorale approvata qua uno non si può andare a rivotare, la novità è che proprio poco prima della nostra trasmissione è uscita una nota di Silvio Berlusconi che ha sbloccato la situazione. Sapete che si era molto incartata la situazione rispetto agli accordi tra Renzi e Berlusconi, di cui parleremo poi dei molti difetti che ci sono, col nostro ospite che ne sa una del diavolo, anche perché praticamente la proposta ha cooperato lui in persona a scriverla. Ma al di là di questo si era tutto incartato, perché come sapete il partito di Alfano vuole che la legislatura duri, il Berlusconi vuole che invece si vada a votare al massimo l'anno prossimo. Il risultato è che è passato con l'accordo di Berlusconi questa cosa che forse alcuni di voi hanno letto stamattina, per chi aveva tempo e voglia di occuparsi di questo, come l'emendamento da torre. Che cos'è l'emendamento da torre? È una cosa che dispone che la riforma elettorale quindi si approva solo per la Camera e non per il Senato, però non è ancora aperta la questione, cioè non è ancora chiusa, perdonatemi, la questione se poi la riforma della Camera, che nelle promesse di Renzi va approvata al più presto, debba entrare poi in vigore dopo un anno o un anno e mezzo, perché sennò Alfano non va bene, perché capisce che poi la legislatura è troppo breve. Ecco, c'è una lunghissima nota di Berlusconi, me la leggo solo poche righe, che dice: prendiamo atto con grave disappunto delle difficoltà del Presidente del Consiglio di garantire il sostegno della sua maggioranza agli accordi pubblicamente realizzati, ma come ulteriore atto di collaborazione a un percorso riformatore verso un limpido bipolarismo e un ammodernamento dell'assetto istituzionale, manifestiamo, prova di maestà, la nostra disponibilità ad una soluzione ragionevole nel disegnare la nuova legge elettorale nei limiti di efficacia alla sola Camera dei Deputati. Ecco, questo è quello che è avvenuto all'inizio del pomeriggio, dopo giorni di apparente blocco. Ripeto, non è ancora chiaro se verrà anche votata nell'esame che comincia, insomma, della legge elettorale, anche una norma che disponga la sua entrata in vigore di qui a X tempo, un anno e mezzo, questo per garantire la durata della legislatura. Però, rispetto al testo di cui oggi si parla, quel testo è pieno di difettucci e difettoni, ed ecco qui con noi a parlarne e a spiegarcene, un politologo, esperto dei sistemi elettorali, che è stato colui il quale, insomma, ha messo un po' il timbro personale su questo tipo di compromesso tra Renzi e Berlusconi. E con noi il professor Roberto Dalemonte, io molto lo ringrazio di essere ai nostri microfoni. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Allora, non so cosa ne pensi innanzitutto di questa cosa dell'emendamento da Torre, era giusto così? Bah, ecco. Ho molte perplessità. Ecco. Mi faccio tornare, Giannino, un attimo al mio ruolo e alle mie critiche. La cosa più importante da dire è che in realtà questa legge elettorale, questo Tiptaricum, è anche così come oggi, in questo momento, migliore del sistema elettorale che ci ha regalato la Consulta. Su questo non ci sono dubbi. Quindi si fa un passo avanti con l'Italicum. I miei rilievi di questi giorni sono legati al fatto che, avendo adesso più tempo, in realtà, perché non c'è più tutta questa fretta che c'è stata a gennaio, inizio febbraio, quando sembrava che dovessimo portare a casa in poche settimane la riforma elettorale, e quindi si è lavorato troppo frettolosamente, adesso c'è il tempo, ci sarebbe il tempo di lavorare di fino per fare una legge elettorale ancora migliore. Quindi io suggerivo alcune modifiche sia sul premio che sulle soglie per rendere più funzionale la legge elettorale, ma resta il fatto che questa legge elettorale è certamente migliore di quella che ci ha dato la Consulta. Allora, iniziamo dai difetti. Dunque, il premio di maggioranza previsto con il 52 dei seggi per cento della Camera a chi ha preso almeno il 37% dei suffragi, primo turno, altrimenti secondo, si va al ballottaggio, significa che si governa con un margine di 6 deputati, un po' pochino, no? Questo è il punto, questo dicevo, perché in realtà inizialmente era più alto, poi nelle varie trattative, gli interventi, perché poi sono tante, gli attori hanno partecipato, quindi è sceso fino al punto che chi vince il ballottaggio avrebbe 321 seggi, che sono 6 seggi, 5 seggi più della maggioranza, la Camera maggioranza sono 316, quindi io dicevo portiamola a 340 come era ai tempi del Porcello, visto che qui c'è una soglia, e quindi sarebbe comunque un premio del 18%, che non è molto superiore al 15 dal punto di vista della sentenza famosa della Corte, ma che dal punto di vista della governabilità farebbe una bella differenza, perché avere 340 seggi invece di 321 è una bella differenza. Poi c'è, per così dire, il, io dico balletto, un termine un po' giornalistico, ma che evidentemente rispecchia anche quello che penso, perché secondo me sono troppe, un po' troppo diverse, il balletto delle soglie previste per la rappresentanza, cioè il minimo di voti percentuale da prendere per avere dei rappresentanti eletti alla Camera, e qui abbiamo tre soglie diverse, perché abbiamo una soglia complessiva per le coalizioni, che è il 12%, una soglia dell'8% per le liste coalizzate, una soglia del 4,5% per i partiti che corrono da soli. Oggi il professor Michele Aini sul Corriere della Sera, dando ragione a quello che lei anche richiamava ieri sul Corriere della Sera, dice: ma ci potrebbero essere dei paradossi inverosimili per i quali, per esempio, se ci fossero 11 partiti, quanti erano quelli dell'Unione di Romano Prodi nel 2006, e se nessuno di ciascuno di questi 11 andasse sopra il 4,5%, comunque sarebbero sopra il 37% previsto per il far scattare il premio di maggioranza. Allora, che cosa si può fare secondo lei su questi tre tipi di soglie diverse tra coalizioni coalizzati o no? Senta, Giannino, quello che dice Ennis in realtà è un problema diverso da quello che ho affrontato io, perché Ennis configura delle ipotesi estreme. Sì. In realtà, allora, anche in Germania potremmo dire: se nessuno arriva al 5%, cosa succede? Perché in Germania sono solo del 5%. Anche in Inghilterra potremmo dire che un partito con 20% dei voti. Ma siccome i partiti poi da 20% e anche meno, ma insomma sopra 4 ci sono, quindi è inutile ricorrere a questi esempi estremi. Esatto, sono ipotesi estreme che lasciano il tempo che trovano. E tuttavia sulle soglie? No, il problema delle soglie è che noi abbiamo un sistema in cui ci sono le soglie con lo sconto, e sono le soglie, no, per chi sta fuori e chi sta dentro, e le soglie speciali le soglie salvaguardie. Quelle per le minoranze linguistiche e per la concentrazione regionale. Qui c'è una tutela costituzionale. No, io parlo del salvalega, una soglia speciale territoriale. E allora mi domando perché il povero Indola non deve avere anche lui la sua soglia, il salvavendola, come una volta c'era il salvamastella. Io questo punto, in realtà anche durante le trattative, l'ho sollevato. Naturalmente io sono un tecnico e sono i politici che fanno le scelte e mi rendo benissimo conto che Berlusconi, Verdini cioè, non ama l'idea della soglia unica, ma la soglia unica è una soglia dal mio punto di vista più funzionale, 4% per tutti, quindi niente salva Alfano, niente salva Lega, 4%, chi sta fuori e chi sta dentro. E quindi sia modo, che ci si presenti da soli senza coalizione, sia all'interno di una coalizione. Esatto. Ora, io sono il primo a dire che è un problema perché Forza Italia questa soglia unica non la vuole, però io sono uno studioso, non un politico, e il mio compito è quello di sollevare i problemi. Poi saranno i politici a decidere se vogliono metterci mano o no. Mi pare di capire che il Salvalega faceva parte dell'accordo Berlusconi-Renzi, anche per me incomprensibile, lo dico, non è una questione per i leghisti, ma capite che si interviene con una norma ad hoc, e la norma ad hoc è un po' singolare dal mio punto di vista. Detto questo, vedremo se viene votata, esatto. Adesso vedremo poi queste cose. Allora aspetti che abbiamo 60 secondi di informazione stradale, strada. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta, 16:47, primi 36 secondi, molti messaggi, più di quanto mi aspettassi, perché di solito questi sono temi un po' freddi da ascoltatore. Gianni da Verona, per esempio, che 5 Stelle, dice: è logico che Berlusconi e Renzi si mettano d'accordo, sono certo che Renzi fallirà per mille motivi, ma loro sanno, loro due, che Grillo stravincerebbe, governandoli distruggerebbe. Poi c'è chi dice: perché non riprendere in considerazione il sistema uninominale secco? A me lo dici, questo sarebbe io sono sempre stato in dubbio tra il nominale secco e il doppio turno alla francese. Per il sistema dei partiti italiano il doppio turno alla francese era quello che secondo me andava meglio, ma come vedete gli attori politici hanno altro per la testa e fanno dei modelli che sono più vicini a ciò che considerano il reciproco interesse, non la modellistica in termini generali sulla governabilità che ha garantito altrove. Allora, avevamo interrotto il professor Roberto Dalimonte, che è qui con noi, ed eravamo al tema delle soglie. Lui ci aveva intrattenuto su questa cosa: 4% per tutti, inutile fare dentro, fuori, la clausola territoriale e così via, no? Certo, però ho anche detto che Forza Italia su questo non ci sente. Tutto fa parte poi di una trattativa. Allora, sentiamo le domande che vengono dai nostri ascoltatori. Ci abbiamo Alberto da Treviso. Prego Alberto, che pensi? Allora, buonasera Giannino. Sì. Senta, il problema secondo me è che 3 mesi fa sembrava che questo Italicum fosse cosa già fatta. Cioè, non dava, tutti erano d'accordo, l'allora maggioranza con Forza Italia. Ora io non riesco a capire perché non si faccia un doppio turno secco alla francese, cioè non secco, un doppio turno alla francese, non si vuole fare l'uninominale, c'è il discorso delle si continua a parlare di quote per naturalmente per i propri interessi. Questo è il grosso problema comunque dell'Italia e delle cose che vengono fatte e di una governabilità presunta. Quindi io mi chiedo, questi politici, dopo tutto quello che sta succedendo, dopo questa crisi economica che ci sta schiacciando tutti, stanno ancora, dopo 3 mesi da un accordo che sembrava cosa fatta, non riescono a trovare una soluzione, e secondo me andranno avanti ancora. Lei dice andranno avanti, Alberto dice andranno avanti. Va bene, storicamente io le ricordo che Berlusconi sul doppio turno alla francese ha sempre avuto un problema, convinto che l'elettorato moderato nel secondo turno alla francese, che come sanno non è di coalizione ma con i candidati è a soglie alte e quindi poi obbliga a trattative tra il primo e il secondo turno, che l'elettorato moderato nel secondo turno, a differenza di quello di sinistra, è meno per così disciplinato, resta più a casa. Ma comunque, insomma, questa storicamente l'ha sempre pensata così. Sentiamo Remo da Bologna. Prego Remo. Buongiorno. Io volevo solo dire una cosa. Cioè, io sarei favorevole all'ipotesi di uno sbarramento del 4%, però darei il premio di maggioranza non alla coalizione ma al partito. cioè abbiamo così chiuso tutte le discussioni, il partito che ha la maggioranza dei voti avrà anche un premio e gli altri, se sono minoranza col 4%, entrano con una quota dedicata, altrimenti rimangono. Cioè lei dice il ballottaggio dovrebbe essere tra i due maggiori partiti, ma dovrebbero essere i due maggiori partiti a correre per il premio di maggioranza, senza coalizione, lei capisce che questo... Niente, e questo eviterebbe anche la ricattabilità o il condizionamento dei partiti minori un domani. Decidiamo una volta per tutti chi avrà la maggioranza. Remo, sentiamo quali sarebbero i difetti a giudizio del professor Dalimonte di questo tipo di impostazione. Questo non è sbagliato quello che dice l'ascoltatore, no, non è affatto sbagliato, però posso dirle che anche su questo c'è un veto assoluto, ci sarebbe un veto assoluto di Forza Italia, che invece ha bisogno della coalizione, di coalizione anche con piccoli partiti per poter raccattare voti di qua e di là, e quindi c'è un veto, diciamo, politico. Sul piano tecnico questo sarebbe un sistema che poi porterebbe nel medio periodo al bipartitismo, per cui se uno accetta questa prospettiva, però chi ha parlato ha detto le cose Esatto. Senta, professore, lei come la pensa sul fatto Camera-Senato? Cosa bisognerebbe fare per evitare pasticci ora che hanno preso la decisione i politici di andare avanti per la Camera? Il Senato? La strada più limpida sarebbe quella di approvare una nuova legge elettorale nei prossimi 3-4 mesi sia per la Camera che per il Senato, cioè l'Italicum, e immediatamente, non domani, ieri, presentare un disegno di legge di riforma costituzionale per il superamento del bicameralismo, perché questo è un problema molto importante, però non va strumentalizzato in questo modo, perché parliamoci chiaro, Giannino, che lo sa meglio di me, tutta questa storia dell'aggancio della riforma elettorale alla riforma del Senato serve solo a legare le mani a Renzi, a non dargli la pistola carica, esatto, con cui a un certo punto della legislatura poter andare a votare nel caso di cose in Parlamento si impantanino. Questo è il problema politico, non è una questione tecnica e costituzionale. Mi scusi, ma chi propone la norma di entrata in vigore posticipata, di qualunque lasso temporale si tratti, per la riforma della Camera una volta approvata, dicendo però non è vigente se non tra 12 mesi, 18 mesi, 36 mesi, quanto vogliono? Questo sarebbe costituzionale? Come si può accettare l'idea nel frattempo, poiché la sentenza della Corte ci dava sì in teoria una legge applicabile, però contemporaneamente, siccome bisognava adattarla, visto che per esempio al Senato bisognerebbe introdurre delle modifiche e la Corte Costituzionale consentiva addirittura, con mio enorme stupore, che lo si facesse per via regolamentare del governo invece che con atti legislativi del Parlamento, ma sarebbe accettabile l'idea di una riforma che rinvia la sua applicabilità costituzionalmente? Come si fa? Anche quella è una cosa che serve a impedire ciò che non si può impedire, secondo me, per legge, cioè l'idea che da un momento all'altro sia necessario andare alle urne. E lei ha ragione, anche se la domanda è rivolta non a me, che sono un politologo ma un giurista, però aggiungo una cosa. Ora, si tratta di capire bene cosa sta succedendo in queste ore, ma l'altro versante del pasticcio è che noi, io non ho capito se alla fine si verrà approvata la nuova legge l'Italicum alla Camera, ma no per la alla Camera, ma solo per la Camera e non per il Senato, per cui a questo punto avremo in vigore nel frattempo, avremo, cioè per quell'anno, anno e mezzo, posto che si possa fare quello che lei diceva poco fa, avremo in vigore una legge maggioritaria, perché l'Italicum è una legge maggioritaria alla Camera, e un proporzionale, quello della consulta al Senato. Per cui se la nota, io lo interrompo per dire che la nota di Berlusconi, che ho riassunto all'inizio, è inequivoca, perché Berlusconi dice: manifestiamo la nostra disponibilità a una soluzione ragionevole che, nel disegnare la nuova legge elettorale, ne limiti l'efficacia alla sola Camera dei Deputati. Quindi, quindi avremo una legge elettorale maggioritaria, l'Italicum, per la Camera, e una legge proporzionale per il Senato. Per cui se nel frattempo succedesse qualcosa, che si dovesse tornare a votare, perché potrebbe anche succedere, noi avremmo un pasticcio cucinato in maniera... Avremmo l'impossibilità di una... perché a quel punto sarebbe ancora bicameralismo perfetto, senza modifica ovviamente della Costituzione, e non ci sarebbe in maniera garantita al limone una maggioranza nei due rami del Parlamento. Esattamente. Potrebbe avremo anche un ballottaggio eventuale in una camera e nell'altro nulla. Voi capite, cari ascoltatori, io a me sembra chiarissimo quello che ci sta dicendo il professor Dalimonte. Voi capite il pasticcio in cui stiamo entrando? Perché qualcuno vuole impedire che si possa andare a votare se non quando dice lui a tavolino? È un pasticcio inenarrabile. Il compromesso di oggi, a mia opinione, è inaccettabile. Non si può avere una legge elettorale solo per la Camera e non per il Senato, o che lascia il Senato completamente difforme, per cui il governo interviene per via regolamentare, ci dà il proporzionale pure e così via, che comunque ci impedisce di avere una maggioranza. Questo è il nocciolo, secondo me, del compromesso di oggi. Sbaglio, professore? No, è così, abbiamo detto, il pasticcio è inenarrabile, questo qui, messo in questi termini, capisce? Quindi, però... Posso chiederle una cosa, lei è naturalmente giusto nei termini della riservatezza con cui lei ha cooperato con Renzi dietro le fila, ma lei è ancora, lo richiamano per sapere le sue opinioni ogni tanto? No, recentemente no. Ecco, infatti si vede. Questo come si vede? No, non dica così. No, ma io lo dico perché sono troppo impegnati. Lo so. Però diciamo, spero che abbiamo spiegato agli ascoltatori in termini piani e chiari che oltre agli grandi difetti che restano nell'impianto di legge elettorale per la Camera, la decisione di oggi di farla solo per la Camera, non per il Senato, è inaccettabile! Continuate su Radio 24.